Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 26 novembre, benvenuti di nuovo a tutti i nostri teleradio ascoltatori su Liberi Dentro, Eduradio e TV, il nostro spazio quotidiano di un'ora al giorno che fa da ponte tra il carcere e la città, che va in onda sempre su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Io sono Caterina Bombarda e qui con me c'è Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. E partiamo sempre dalla nostra rassegna stampa quotidiana con una bella notizia oggi, perché titola per l'appunto la redazione di Bologna Today: Guccini dona le sue canzoni al carcere, i versi su t-shirt e zaini per aiutare la sartoria. Quale sartoria? Quella del carcere Gomito a Gomito, presente alla casa circondariale Dozza di Bologna. Ed è così che i versi delle canzoni di Francesco Guccini finiranno su magliette, shopper, zainetti, confezionati proprio da questa sartoria del carcere. Ed è la prima volta che il cantautore lo permette. Sappiamo quanto lui sia geloso, giustamente anche, non abbia mai permesso questa, diciamo, pubblicizzazione del suo marchio al di fuori delle pagine di un libro, perché sappiamo che Guccini, oltre a essere cantautore, ha scritto anche alcuni libri. Si potranno quindi acquistare sul sito della sartoria Gomito a Gomito e il ricavato andrà a sostegno della cooperativa sociale Siamo Qua, che è proprio impegnata a favorire la formazione professionale e l'impiego delle persone in stato di detenzione. Quindi, ha detto Guccini, parole e arte a vantaggio di un'ottima causa, e quindi lui era molto contento di aderire a questa iniziativa. È molto bello, perché effettivamente Guccini è sempre stato piuttosto defilato su queste cose. E certo, Caterina, scegliere su oltre 160 canzoni mica facile. No, non è stato facile, però sai, riflettendo sulla realtà su cui ci si muove, ovvero il carcere, si sono scelti, diciamo, alcuni versi di canzoni che sono più rappresentative di alcuni temi del carcere, per esempio i volontari, ma come anche le aspettative che l'impegno della cooperativa suscita nelle persone con cui lavora. Per esempio, Don Chisciotte, la notissima canzone di Guccini che è degli anni 2000, è un inno ai volontari, che sono tanto simili a cavalieri erranti di imprese impossibili, ed ecco che si è scelto il verso: anche se siamo soltanto due romantici rottami, sputeremo il cuore in faccia all'ingiustizia giorno e notte. Siamo i grandi della Mancia, Sancho Panza e Don Chisciotte. Quindi questa frase è finita magari su uno zainetto o una shopper. Poi c'è la Locomotiva, famosissima canzone del 1972, scelta per la convinzione dei volontari, come anche noi, Antonella, che la persona non sia mai solo il suo errore. Quindi c'è questa frase riportata, ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali, parole che dicevano: gli uomini sono tutti uguali. Si può leggere per l'appunto anche questa in shopper, magliette, quindi è molto carina come iniziativa. Sì, c'è veramente l'imbarazzo della scelta, perché tra l'altro la scrittura di Guccini è molto bella e molto poetica. Ma infatti, che mi dici di Canzone di notte a questo punto, un altro brano bellissimo degli anni 70, non credi? Brava, è una delle altre canzoni di Guccini scelte per le stampe da parte della sartoria Gomito a Gomito, che recita l'ormai famosissima frase: scusate, non mi leggo a questa schiera, morrò pecora nera, che rispecchia la determinazione nel dare un'altra opportunità alle persone ristrette. E per finire, in una sorta di chiusura circolare, c'è l'ultima frase tratta da Il vecchio e il bambino. E il bambino lo sa, ma non riesce a comprendere ciò che il nonno racconta, e il vecchio al modo suo lo sa che il bimbo non lo riesce a comprendere, chiede al piccolo di immaginare, che lo ascolta e non capisce, e gli dice: mi piacciono le fiabe, raccontane altre. Quindi, per finire, ecco, l'adesione a questa iniziativa da parte di Guccini è raccontata anche in 5 video pubblicati su YouTube, uno dei quali dedicato anche ad altre sue visite personali, perché nonostante lui sia un po' defilato effettivamente anche in questi ultimi anni, è una persona che ha girato le carceri, come in particolare il carcere di Porto Azzurro sull'isola d'Elba. E lui dice appunto in quell'occasione: mi ricordo quando entravi e poi alle tue spalle si chiudeva il portone e pensavo: io stasera riesco, ma questa gente qui no. E quindi, insomma, anche molta empatia da parte di Guccini. Caterina, ma c'è un modo per poter acquistare queste magliette o questi zainetti o altro? Si può andare sul sito, si cercano, si comprano? Ma certo, Antonella, si può andare sul sito di Gomito a Gomito, basta digitare gomitoagomito.com, c'è una sezione dedicata allo shop e lì si trovano tutte le borsette, le maglie, c'è anche proprio già l'iniziativa di Guccini sponsorizzata e quindi si può trovare veramente di tutto. E oggi, un po' per anche contraddire la regola di Bruce Springsteen, invece voglio restare con Guccini e lancio Don Chisciotte, ascoltiamolo insieme e ci rivediamo tra poco. Ho letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie e i giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza, come un vigliacco ozioso, sordo ad ogni sofferenza. Nel mondo oggi più di ieri domina l'ingiustizia, ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia. Proprio per questo, Sancho, c'è bisogno soprattutto uno slancio generoso, fosse anche un sogno matto. Vammi a prendere la sella, che il mio impegno ardimentoso l'ho promesso alla mia Della, Dulcinea del Toboso. E a te, Sancho, io prometto che guadagnerai un castello, ma un rifiuto non l'accetto, forza, sellami il cavallo. Tu sarai il mio scudiero, la mia ombra confortante, e con questo cuore puro, col mio scudo rondinante, colpirò con la mia lancia l'ingiustizia giorno e notte, come vero nella mancia che mi chiamo Don Chisciotte. Questo folle non sta bene, ha bisogno di un dottore, contraddirlo non conviene, non è mai di buon umore. È la più triste figura che sia apparsa sulla terra, cavalier senza paura di una solitaria guerra. Cominciata per amore di una donna conosciuta, dentro una locanda ore dove fa la prostituta, ma credendo di aver visto una vera principessa, lui ha voluto ad ogni costo farle quella sua promessa. E così da giorni abbiamo solo carci nel sedere, non sappiamo dove siamo. E rieccovi, bentornati, sempre su Liberi Dentro e Eduradio TV. Il nostro venerdì, come sapete, è sempre animalesco e questa volta parliamo di gatti, vero? Il nostro amato gattino che abbiamo cresciuto amorevolmente, che ci compensa con le sue fusa, che si fa carezzare, che nutriamo con squisiti pasti degni di un cuoco gourmet, soprattutto se è abituato ad uscire, perché viviamo in alcune aree in cui il traffico è relativo, è abbastanza ridotto e ci sono pochi pericoli, in realtà si trasforma in un temibile predatore che dimostra la sua abilità portandoci il malcapitato uccellino, topolino o lucertola, che spesso neanche mangia. È un trofeo che ci lascia davanti ai piedi. Anche la mia gatta Zoe, che ormai però è abbastanza anziana, ha quasi 14 anni, qualche volta mi ha fatto questo sgradito regalo. E l'insolita ma pesante fonte d'impatto nei confronti della piccola fauna, a cui noi non pensiamo mai, e la piccola fauna selvatica sono uccelli, rettili, anfibi, micromammiferi, è rappresentata dal sempre più numeroso numero di gatti domestici che frequentano le nostre campagne, attorno a cascine, paesi, città, insomma ovunque possano stare liberi senza grandi pericoli. Sia che si tratti di animali domestici lasciati liberi dai padroni per le loro escursioni quotidiane, sia di soggetti praticamente rinselvatichiti, cosiddetti gatti ferali, il gatto Felis catus è un vero e proprio distruttore di biodiversità. Caspita, Antonella, non avevo mai pensato ai gatti da questo punto di vista. Secondo numerosi ricercatori e varie organizzazioni scientifiche come l'International Union for Conservation of Nature, oppure il Bird Life International, nonché un gruppo di ricercatori dell'Università di Siena, solo in Italia ci sono oltre 207 specie che possono essere predate dai gatti, pensate un po', tra cui almeno una trentina sono inserite nelle liste rosse delle specie minacciate. Le prede preferite dei gatti domestici ovviamente sono diverse, uccelli, piccoli mammiferi come i passeriformi e i roditori, seguiti poi dai piccoli rettili come lucertole Biacchi e Ramarri. Tali predazioni diventano poi dei veri e propri massacri in situazioni circoscritte o dove gli animali arrivano provati da voli migratori, come per esempio le piccole isole del Mediterraneo. E secondo un gruppo tra i migliori ornitologi e birdwatcher italiani che appartengono a una sigla che si chiama MISC, pensate che significa malati di isolitudine cronica, è veramente molto buffo questo nome che si sono dati, coordinata da Andrea Corso, che da circa 16 anni studiano l'immigrazione autunnale a Linosa, gli oltre 400 gatti che ormai letteralmente infestano la piccola isola delle Pelagie, uccidono quasi 300-400 uccelli al giorno, tantissimi se ci pensate. Sono state osservate tra l'altro predazioni dirette su petirossi, codirossi, lucherini, pispole, codirossi, spazzacamino, merli, capinere, insomma un sacco di specie, e anche il rarissimo zigolo minore, osservato quest'anno ai primi di ottobre, è sopravvissuto solo 2 giorni. E dopo è stato catturato come altre rarità censite sull'isola, quali anche lo zigolo dal collare e il re di quaglie. Insomma, veramente una cosa incredibile se ci pensiamo. Immagino poi queste specie migratorie che arriveranno sfiancate da questi viaggi e poi saranno preda dei nostri gattini. Gli uccelli arrivano sfiniti infatti dopo il lungo volo migratorio e vengono così facilmente catturati e uccisi dai gatti. Lo stesso ovviamente avviene su altre isole come Capraia, Giglio, Ventotene, Santo Stefano, San Pietro, Procida, insomma è una purtroppo una caratteristica che avviene un po' dappertutto. La situazione, sebbene drammatica, assume poi alcuni aspetti imbarazzanti. Infatti il miccio domestico ha un'immagine simpatica e innocua addirittura, e gli stessi proprietari di gatti fanno fatica a rendersi conto e ad accettare il lato oscuro dei loro animali. E quindi che soluzioni si possono trovare? Caterina, la situazione è insomma difficile perché ci sono soluzioni drastiche come la sterilizzazione o l'abbattimento. Pensa che in Australia e nelle isole Mauritius hanno abbattuto molti gatti per questo motivo. Però sai, sono cose difficili da proporre, ancora di più da attuare. Corso, questa persona di cui abbiamo appunto parlato poco fa, propone al sindaco di Lampedusa di obbligare i proprietari dei gatti ad almeno mettere ai loro animali dei collari muniti di campanellini. È una soluzione molto semplice in realtà, perché aumentando la possibilità per alle prede di sfuggire dai loro micidiali agguati, si salvano molte specie. Ed effettivamente è una cosa poco dispendiosa, non si fa male a nessuno, al limite può essere un poco fastidiosa perché si sentono continuamente dei rumori. E sarebbe questa una piccola azione che potrebbe sicuramente non risolvere il problema, ma diminuire gli impatti dei felini sul resto della fauna locale, perché effettivamente la nostra biodiversità è terribilmente a rischio per questi amabili predatori, perché sono anche i nostri gatti domestici. Se li lasciamo liberi, ritorna l'istinto predatorio e cominciano a portarci a casa proprio questo, diciamo, il trofeo della giornata. E rimaniamo a parlare di gatti, ma in un modo un po' diverso, anzi diversissimo, perché la canzone che ascolteremo adesso è Il gatto e la volpe di Edoardo Bennato. Ascoltiamolo insieme. Se ci ascolti per un momento, capirai. Lui è il gatto e io la volpe. Stiamo in società di noi, ti puoi fidare. Puoi parlarci dei problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo 4 monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un bel affare? Non perderò occasione. Se non vuoi bene, pentirai. Non tentare tutti i giorni di avere quei consulenti. Avanti, non perdo tempo, firma qua. È normale con tanto formale. rieccoci, bentornati sempre per la nostra parte con l'ospite su Liberi Dentro Dura di TV. Per quest'ultimo appuntamento l'ospite è Isabella Matulli. Ciao Isabella. Ciao, spero non ne abbia bevuto abbastanza. No, comunque è l'ultima volta. L'ultima volta perché è venerdì, ma sicuramente ti contatterò ancora. Poi ci rivediamo tutti i giovedì in carcere, quindi non finisce mai tra di noi. E che accennavo qualche giorno fa, sei volontaria AVOC e missionaria sì. AMI. Quindi l'impegno sociale tuo, te lo dico sempre, è a 360 gradi e tocca diverse realtà di emarginazione e povertà, dai paesi materialmente poveri a luoghi spesso nascosti, come dico io, della nostra società, dove le persone sono sottoposte alla privazione della libertà personale. Ma da dove nasce questo tuo impegno per il carcere ormai da diversi anni e dove in qualche modo si tocca un altro tipo di povertà, vero? Sì, allora diciamo che nasce da due motivazioni, una strettamente personale legata ad un episodio e l'altra diciamo da una motivazione, se posso dire, ideale, no? E la motivazione personale è una cosa che non racconto spesso, ma tanto dai, siamo tra amici. Grazie. Nel giugno del 2003 in Eritrea abbiamo avuto un incidente molto brutto, eravamo in 5, e 5 missionari ci hanno sparato addosso e per rimediare questa cosa, in cui appunto due sono rimaste ferite anche in maniera importante, io sono l'unica che sono rimasta illesa, e dicevo, per rimediare questa cosa hanno pensato bene di mettersi in prigione per 15 giorni e quindi diciamo l'aver conosciuto un carcere africano da una parte mi ha fatto scoprire che anche in questa situazione qui c'è molta umanità, c'era veramente tanta solidarietà e mi ha fatto anche riflettere sul fatto di dire ma cioè, come voglio volgere al bene questa esperienza, no? Perché non rimanga semplicemente un'esperienza negativa, no? Uno shock. E quindi in realtà non immediatamente, perché poi dopo sono rientrata in Eritrea e dopo appunto il periodo di riposo in Italia, e, però ecco, diciamo che è stata una cosa che un po' tenevo lì, che coltivavo, eccetera. Quindi cioè, quando ci hanno finalmente espulso dall'Eritrea, cioè dovevo un attimo, no, anche cercarmi un ambito, e quindi questa cosa del carcere la tenevo un po' lì. L'altra, ecco, c'era una motivazione più di tipo ideale che mi veniva un po' da una riflessione, cioè notavo un po' questa cosa, se e appunto andando nelle scuole, nelle parrocchie, nei gruppi, eccetera, a parlare di Africa, e generalmente la gente insomma, è ben disposta, no? Se poi si parla di bambini, addirittura c'è anche chi si prova in tasca e si fa anche l'offerta, no? Questo è abbastanza convincente. E, ecco, se invece magari il tema può essere quello di persone detenute, allora vedi che cominciano e distinguono, ma se la sono cercata, eccetera. Ecco, allora ho pensato come, diciamo, una persona appunto detenuta sia una persona spesso povera, nel senso che non gode neanche della simpatia di chi sta fuori, no? Quindi, diciamo, questo tipo di povertà. E per me e per gli altri, insomma, dell'AMI, che così pensiamo di dedicare la nostra vita ai poveri, e, ecco, mi è sembrato, insomma, una povertà da tenere in considerazione. Mi chiedo, anzi ti chiedo, siccome essere volontari AVOC significa incontrare tante persone e venire a contatto con diversi bisogni, qual è il gesto che spesso le persone prive della libertà personale apprezzano di più nel momento del colloquio e se tu ti sei mai chiesta se bastasse veramente poco alla fine per rendere più serena la vita di una persona che vive in carcere. Sì, io adesso il gesto credo che a volte sia proprio il ricordarsi e ricordarsi i nomi dei partner, dei figli, no? Ricordarsi magari la squadra per cui uno tifa, questo mi viene facile perché io sono appassionata di calcio. cioè il fatto anche proprio di dimostrare un interesse reale per le storie di queste persone con cui appunto abbiamo tanto in comune, no? Abbiamo magari degli interessi in comune, delle passioni in comune, eccetera. E sì, a volte basta poco, nel senso che più di uno mi ha detto, beh, almeno ho passato 10 minuti, 20 minuti, no, di normalità a parlare di calcio, a parlare di un libro, a parlare di un film, a parlare dei figli, a parlare, no, di come i figli vanno a scuola, o, no, cose proprio come si farebbe normalmente, diciamo, tra amici, tra conoscenti, perché mi rendo conto che l'ambiente del carcere spesso opprime anche psicologicamente, perché le persone sono portate tra di loro a parlare sempre, no, delle solite tematiche legate appunto alla detenzione, alla causa in Reato. corso, al reato, eccetera, no? Mentre invece abbiamo tutti bisogno di una boccata d'aria fatta proprio di cose normali. Normali, no? Comuni, il campionato, un film, eccetera. Isabella, io spero tanto che chi tra i cittadini magari di Bologna e dell'Emilia-Romagna ci sta ascoltando in questo momento venga la voglia o l'interesse di diventare volontario, anche magari un volontario dell'AVOC. Come potrebbe fare? Quale potrebbe essere il primo passo? Diciamo quello che ho fatto io, nel senso che sono andata a cercare su internet un contatto, è spuntato il sito dell'AVOC, ho chiamato e all'epoca era presidente il professor Tibaldi, ho preso appunto un appuntamento con lui, il quale mi aveva anche proposto di andarmene in carcere a Forlì, e io appunto perché sono persona, ho detto no, io sì, sto a Faenza, ma diciamo, i miei rapporti mi vengono più naturali con Bologna, e poi ecco, farsi anche un po', diciamo, accompagnare dall'associazione AVOC o dai volontari magari un po' più di lungo corso, a capire anche quale può essere l'ambito in cui uno si può impegnare, perché sono tanti i servizi, non è detto magari che siamo tutti tagliati per la stessa cosa, o che magari in quel momento lì c'è un po' un'emergenza, c'è un servizio un po' più scoperto, ci può essere bisogno in una cosa anziché in un'altra. E una caratteristica forse personale di una persona portata sicuramente potrebbe essere una grande capacità di non giudicare la persona, ecco, in base al suo reato. Cioè, questo anche io da volontaria, nel senso, se dovessi consigliare a qualcuno di fare un percorso come volontario, ecco, liberarsi un po' degli stereotipi e delle varie stigmatizzazioni, se no è impossibile fare un lavoro anche oggettivamente gradevole per chi ti trovi davanti. Sì, anche perché poi io posso capire magari inizialmente i primi giorni di uno fa volontariato, no? Una sorta di curiosità più o meno sana, ma io dico, cioè, adesso dopo, ormai sono 10 anni, insomma, a parte le parentesi africane, quando che entro in carcere non chiedo mai né il reato, né mi interessa più di tanto saperlo, perché è comunque qualcosa che appartiene al passato di una persona, non appartiene al suo presente. In quel momento lì a me interessa il presente di questa persona, no? Quindi non voglio inchiodare nessuno da nessuna parte, perché lo stesso dispiacerebbe se lo facessero con me, no? Chiaro. Una bella reciprocità. E quindi l'invito è andare a vedere il sito dell'AVOC e ovviamente adesso ancora un brano musicale, ci rivediamo per i saluti finali, rimaniamo con i Passenger, Simple Song. Grazie Isabella e spero di rivederti un'altra volta. Cioè noi ci rivediamo sicuramente, ma ci rivediamo anche su È una Eduradio. minaccia, grazie a voi per la pazienza. Ciao. Ciao, ciao, ciao. It's a simple song, won't stop the rain from coming down. We're hard from breaking. It's a simple song, it's never gonna turn this day around. Stop the earth from shaking. It's just a simple song. Nothing right or wrong. You can sing along if you want to. Well, I know it's not been easy, but easy ain't worth singing about. Timing is a simple song, won't stop the rain from coming down or your heart from breaking. E anche oggi, dopo aver ascoltato la nostra Isabella Matulli, ospite con noi tutta la settimana, le nostre rubriche a seguire. Oggi che è venerdì, sempre Islam, religione e società, dai poveri aiutare gli altri poveri, e poi a seguire la rubrica del CEFAL su, che è una replica, i mestieri legati al mondo dell'edilizia. Domani, che è sabato, ci siamo sempre, le parole della parola a cura di padre Marcello Mattè, e poi parliamo di buddismo con il venerabile Seyun. E poi a seguire la nuova rubrica musicale In Out con il musicista Massimo Altomare in collaborazione con l'associazione Tempo Reale, e a seguire Calcio Galeotto. La domenica ritorniamo sempre con le rubriche di Yoga Ratna a cura di Franco Bonisoli con Laura Russo, e a seguire ancora una puntata di Calcio Galeotto, questa volta con l'intervista a Alessandro Leotti, che è giornalista e presidente del Brera Calcio. Un carissimo saluto a tutti da me, che sono Caterina, Antonella Cortese, Enea Flacco e Diana Bota, e ci rivediamo lunedì prossimo. Grazie. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.